job la sili sa mi di minella in fekrin gadi dilwaid gadan tadur daira gadan tadur daira tamhu al ghuyum al abira wa fi samai al zafira تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة القاهرة القاهرة غدا يطل غدا يطل غدا يطل غدا يطل موقف الزمان في ركوعنا يضيء للأجيال بالدم الزكي من دموعنا غدا يطل موكب الزمان في ركوعنا يضيء للأجيال بالدم الزكي من دموعنا غدا يطل غدا يطل غدا يطل موكب الزمان في ركوعنا يضيء للأجيال بالدم الزكي من دموعنا وشعلة الحياة في ضروب كل زمة كلها من الأعماق للمد العريق الخالد كلها من الأعماق للشعب الأصيل الصامد كلها من الأعماق للفجر الجديد الواعد غدا تدور الدائرة غدا تدور الدائرة تمحو الغيوم العابرة وفي سماء الظافرة تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة القاهرة القاهرة وأم وأخت وحبيبة بيلاقي فيك قلب مليان إخلاص وطيبة، بيحس بالحنان وبيشعر بالأمان، بيحس بالحنان وبيشعر بالأمان. يا مصر يا حب أكبر وأبقى من الزمان، يا مصر يا حب البلاد يا بلدي، يا مصر يا مصر يا غنوة حب حلوة بنقولها بقلبنا. أحلى البلاد يا بلدي يا مصر يا مصر يا غنوة حب حلوة حبايبي. يا بلدي أحلى البلاد، يا بلدي يا أهلي وحبايبي، يا بلدي لو غبت يا مصر عني بلاقيك في نبض قلبي. يا بلدي يا بلدي أحلى البلاد، يا بلدي يا أهلي وحبايبي، يا بلدي أحلى البلاد، يا بلدي يا أهلي وحبايبي، يا بلدي لو غبت يا مصر عني بلاقيك في نبض قلبي. يا بلدي يا بلدي وبحبك للجميل، وسهر وغنى ومواويل، وبحبك للجميل وسهر وغنى ومواويل، ونخيل عالشط بيرقص وشراع على خد النيل. يا نسمتي وهوايا، يا ضحكتي وغنايا، نسمتي وهوايا، يا ضحكتي وغنايا، يا حب العمر كله حبك مالوش نهاية. يا يا يا يا مصر أحلى البلاد، يا بلدي يا مصر يا مصر يا غنوي حب حلوة بنقولها بقلبي. أحلى الميلاد يا بلدي يا مصر يا مصر يا غنوة حب حلوة بنقولها بقلبي. Thank you. il Cairo, radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto. Vi invitiamo ora all'ascolto del notiziario. Cominciamo con i titoli delle principali notizie. Mubarak pronto a dimissioni ma temo paese precipiti nel caos. Il vicepresidente apre un dialogo con l'opposizione. Il primo ministro annuncia un'inchiesta urgente per identificare i responsabili degli scontri sanguinosi sulla piazza Et-Tahrir. I manifestanti del movimento dei giovani del 25 gennaio hanno deciso di ritirarsi dalla piazza Et-Tahrir e di formare un partito politico. Nello Yemen, 3 persone ferite in una manifestazione di militanti separatisti. Lo stato di emergenza in Algeria, in vigore da 19 anni, sarà revocato a breve. Ed ora le notizie in dettaglio. Il presidente Hosni Mubarak si è detto pronto alle dimissioni, ma teme che il paese possa cadere nel caos. Vorrei lasciare il mio incarico adesso, ma non posso per timore che il paese possa scivolare nel caos, ha detto Mubarak in un'intervista alla ABC. Non mi interessa quello che dice la gente di me, ha aggiunto. In questo momento mi interessa il mio paese, mi interessa l'Egitto. Sono molto triste per quello che è successo ieri. Non voglio vedere egiziani che combattono fra di loro. In un'intervista rilasciata alla TV pubblica, il vicepresidente Omar Sulaiman ha dichiarato che l'appello del movimento di contestazione in Egitto alla partenza immediata del presidente Hosni Mubarak è un appello al caos. Sulaiman ha dichiarato che le violenze che hanno avuto luogo alla piazza Tahrir tra oppositori e sostenitori del regime sono stati il risultato di un complotto fomentato da agenti in Egitto stesso o all'estero. Il vicepresidente ha inoltre annunciato di essere stato incaricato dal presidente Mubarak di aprire un dialogo immediato con l'opposizione, affermando che i fratelli musulmani sono stati invitati a partecipare al dialogo tra il potere e l'opposizione. I fratelli musulmani hanno però rifiutato l'invito al dialogo. Ha aggiunto che il candidato alla presidenza dovrebbe riempire delle condizioni specifiche e che delle restrizioni sulla candidatura alla presidenza sono necessarie affinché tutti i cittadini siano rassicurati riguardo al futuro leader del paese. Il primo ministro Ahmad Shafiq ha affermato che le autorità apriranno un'inchiesta urgente per identificare i responsabili degli scontri sanguinosi che hanno avuto luogo sulla piazza El Tahrir tra partigiani ed oppositori del regime. Shafiq ha indicato di aver parlato al telefono con alcuni giovani e dei manifestanti che si trovano sulla piazza El Tahrir e si è detto disposto ad andarvi per discutere con loro. Ha affermato che il dialogo con l'opposizione è incondizionato, sottolineando che niente impedisce l'apertura di un dialogo con i fratelli musulmani. Shafiq ha dichiarato che il presidente Mubarak l'ha incaricato di investigare sull'assenza completa delle forze di sicurezza che avevano recentemente causato gravi danni nei beni pubblici. Secondo la televisione dello Stato, una fonte di sicurezza ha smentito ogni voce che circola sull'arresto dei manifestanti che uscivano dalla piazza El Tahrir. La televisione egiziana ha annunciato che le forze armate garantiscono un'uscita sicura dei manifestanti della piazza El Tahrir, visto che un gran numero di loro l'hanno chiesto. I manifestanti del movimento dei giovani del 25 gennaio hanno deciso di ritirarsi dalla piazza El Tahrir. In un comunicato pubblicato su Facebook, i manifestanti hanno deciso di formare un partito politico in previsione delle prossime elezioni. La compagnia Egyptair ha annunciato che effettuerà oggi 65 voli a partire dalle 9 del mattino fino alle 19 ora locale. La compagnia ha inoltre annullato i voli iscritti dalle 19 fino alle 9 del mattino. In un comunicato, la compagnia ha indicato che effettuerà anche 20 voli a destinazioni dei paesi arabi ed altri 20 per l'Europa, oltre a 23 voli interni a Sharm el-Sheikh, Hurghada, Luxor e Aswan. Da Radio Cairo siete all'ascolto del notiziario. Le forze del secondo esercito di guerra al governatorato di Ismailia hanno arrestato un gran numero dei prigionieri che si sono evasi dalle prigioni. Intanto le forze del terzo esercito di guerra hanno detenuto altri prigionieri che erano fuggiti dalla prigione di Hawzabal. Nello Yemen tre persone sono state ferite, tra cui uno in modo grave nel sud-est del paese, quando la polizia ha lanciato gas lacrimogeni e proiettili reali per disperdere una manifestazione di militanti separatisti. In un comunicato diffuso dalla radio locale, i servizi di sicurezza avevano chiamato la popolazione a non partecipare alla manifestazione non autorizzata e organizzata da un gruppo fuori legge, espressione utilizzata dalle autorità per designare il movimento sudista. Lo stato di emergenza in Algeria, in vigore da 19 anni, sarà revocato a breve. Lo ha detto l'agenzia di stato ufficiale APS, citando le parole del presidente Abdelaziz Bouteflika. L'annuncio fa seguito alle pressioni esercitate dagli oppositori del governo, che hanno chiesto la fine dei poteri di emergenza e hanno convocato una manifestazione nella capitale per il 12 febbraio. Al fine di bloccare ogni ipotesi infondata su questo soggetto, ho ordinato che il governo fissi disposizioni adeguate che consentano allo Stato di continuare a combattere il terrorismo fino alla sua conclusione e con la stessa efficacia, ha detto ancora l'agenzia citando il presidente. Bouteflika ha detto che le marce di protesta vietate dallo stato di emergenza saranno permesse ovunque tranne che nella capitale. Una nuova conferenza dei donatori sulla creazione di uno Stato palestinese si terrà a giugno prossimo a Parigi, lo ha reso noto un comunicato di alcuni ministri riuniti in Francia. Questa conferenza si terrà poco prima di una data che sarà fissata dal quartetto per un accordo politico che dovrebbe essere trovato dalle parti via i negoziati. Nel loro comunicato, i presidenti e copresidenti della Conferenza Internazionale dei Donatori per uno Stato palestinese hanno invitato Israele a prendere misure strutturali più ambiziose per continuare a facilitare gli accessi e i movimenti nei territori palestinesi. In Giordania, il fronte dell'azione islamica, principale forza d'opposizione, ha affermato che l'incontro di ieri con il re Abdullah è stato franco ed incentrato sulle riforme, tra cui in particolare una serie di emendamenti alla Costituzione. La riforma porterà alla formazione di un governo parlamentare procedendo agli emendamenti costituzionali necessari per un partenariato politico con tutte le forze politiche. In Turchia è salito a 16 morti il bilancio delle vittime delle due esplosioni avvenute ieri ad alcune ore di intervallo in un quartiere industriale di Ankara che sarebbero dovute al gas. La prima esplosione, che ha avuto luogo in un'officina di produzione di gruppi elettrogeni, ha fatto 7 morti e 34 feriti. La seconda esplosione ha fatto in totale 9 morti. Con questa notizia termina il notiziario di oggi da Radio Cairo. Ora passiamo ad una rassegna stampa rapida e cominciamo con i titoli del quotidiano Al-Ahram e leggiamo: Parlamento sospeso fino all'esito dei ricorsi elettorali. Esercito alla piazza, tornate a casa. Ripristinato l'accesso ad internet. Coprifuoco alleggerito di 2 ore. In una notizia pubblicata sul quotidiano Al-Akhbar leggiamo: secondo un comunicato diffuso da alcune organizzazioni dell'opposizione, molti agenti in borghese si sarebbero infiltrati nei gruppi pro Mubarak. Il Ministero degli Interni ha negato qualsiasi coinvolgimento delle forze di sicurezza. Le autorità egiziane, che hanno parzialmente ristabilito l'accesso alla rete internet, hanno alleggerito il coprifuoco in vigore nel paese, che inizierà un'ora più tardi, alle 16 ora italiana, per terminare un'ora prima alle 6 del mattino. Passiamo ora al quotidiano Al-Gumhurey e leggiamo: sul fronte politico, Mubarak ha annunciato ieri di non volersi ripresentare alle prossime elezioni presidenziali in programma a settembre, ma il Ministero degli Esteri del Cairo ha respinto all'emittente l'invito della comunità internazionale ad una transizione immediata. Cari ascoltatori, arrivederci. وشوفك في الفؤاد آية انتي الامان وانتي الايمان يا مصر، وانتي الصمود وانتي الوجود يا مصر، وانتي الحياة. Ascolto di l'Islam negli occhi degli intellettuali, un programma a cura di Saleh Shawadfi. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro programma, nel quale commentiamo i punti di vista sull'Islam di intellettuali musulmani e non. Il professore inglese Fellows sostiene: in questa vita ci si assume la responsabilità delle proprie azioni. Se sei un commercialista e falsifichi i documenti dei tuoi clienti, vai in prigione. Se guidi a velocità elevata, avrai un incidente. Non credo che siamo nati peccatori. L'Islam dichiara che il peccatore stesso riceverà la dovuta punizione. Aziz Somad dell'Università di Peshawar dice: la macchia del peccato nelle nostre anime possono essere cancellate non con la sofferenza o la morte, ma con il pentimento e con la sottomissione a Dio. L'Islam dichiara che il perdono dai peccati non si ottenne con il sacrificio o la sofferenza di terzi, ma con la grazia di Dio e con i nostri sacrifici. Un versetto coranico detta: chi riceve una linea guida la riceve per il suo bene, e chi non la segue subirà le perdite. La salvezza non si ottiene con la punizione di un innocente, e questo ci conduce al concetto di peccato dell'Islam. Uno dei maggiori quesiti dell'esistenza umana è il problema del peccato o del diavolo nel mondo, dice il professor Hamouda Abdelati del Centro Internazionale del Libro Islamico. Si sa che il peccato inizia con Adamo ed Eva e con la loro permanenza nell'Eden. Questo evento ci ha resi peccatori. L'Islam ha preso un'unica posizione che non è presente nelle altre religioni. Il Corano dice che Adamo ed Eva vivevano nell'Eden ed erano stati raccomandati di non cogliere i frutti di un determinato albero, ma Satana si è insediato tra loro e li ha fatti cadere in peccato e sono stati costretti a lasciare l'Eden. Essendosi pentiti, hanno chiesto perdono e espresso il loro rimorso per mezzo della preghiera a Dio. Questo evento simbolico ci dimostra che il genere umano è imperfetto anche se vive in paradiso. Ma commettere un peccato non necessariamente ferma la crescita morale. Al contrario, l'essere umano ha abbastanza sensibilità per riconoscere i suoi peccati. L'idea del peccato originale non ha spazio nei precetti dell'Islam. L'uomo, per il Corano, è nato in un naturale stato di purezza. Tutto ciò che diviene l'uomo è frutto dell'influenza esterna. La natura umana è malleabile, il processo di socializzazione è cruciale. Ma ciò non nega la libertà individuale. Dio è il compassionevole e misericordioso. Ha creato l'essere umano con un sospiro. Dio è la perfezione, l'uomo è stato creato per mantenere una parte di questo buono spirito del Creatore. Ma allo stesso modo Dio ha creato l'uomo affinché lo veneri. Questo significa che non importa quanto l'uomo sia buono con la grazia del Creatore, è ancora lontano dalla sua perfezione. La qualità dell'uomo

عن الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات فرائض عقدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات فرائض عقدي إن مجدي في Mit den Tonzeichen war soeben 21 Uhr ägyptischer Zeit.